Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La sfida è iniziata, seggi già aperti, molti stati americani. Dai sondaggi si attende una valanga per Obama, ma il fattore razziale potrebbe pesare. All'Italia parla Colaninno, la trattativa è chiusa, semmai prendo i piloti Ryanair. 7,5 milioni i poveri in Italia, secondo l'Istat il 3,6% delle famiglie appena sopra la soglia. E si sta concludendo l'Ecofin sulla crisi a Bruxelles, sta per iniziare la conferenza stampa del ministro Tremonti. Le faccine degli SMS per giudicare i dipendenti pubblici, l'idea di Brunetta fa discutere, in XL l'intervista ad un semiologo. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari in Congo, fra poco sentiremo la voce di un operatore italiano. La situazione a Goma, racconta, è tranquilla solo per i bianchi. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. È il giorno della scelta per gli Stati Uniti. Chi fra Barack Obama e John McCain sarà il nuovo inquilino della Casa Bianca? Gli ultimi sondaggi, diffusi alcune ore fa, danno anche ancora per favorito il candidato democratico. In particolare, secondo una rilevazione Reuters Zogby, Obama è in vantaggio in 5 degli 8 stati considerati cruciali. In generale, il senatore dell'Illinois è in vantaggio di 11 punti percentuali, mentre ieri il distacco era del 7%. In questo caso anche il sentore che arriva dall'Illinois è che quindi una gaffa azzeccata in questo caso. Parlavamo dei sondaggi, ma c'è un posto negli Stati Uniti dove non contano più i sondaggi perché ci sono già i dati reali. È il New Hampshire, dove tradizionalmente in due piccoli paesi si vota a mezzanotte. I risultati vengono diffusi subito dopo. Piccolissimi paesi, Dixville Notch, su 21 elettori registrati 15 hanno scelto Obama, e poi Hart's Lodge, tradizionalmente in quota repubblicana, il candidato democratico ha ottenuto 17 voti contro i 10 di John McCain. Insomma, troppo pochi per dare una proiezione del voto americano. Sentiamo per ora le parole di Obama nell'ultimo comizio della notte scorsa. Some of you heard that my grandmother who helped raise me passed away early this morning. Qualcuno di voi ha sentito che mia nonna, che mi ha aiutato a crescere, è mancata questa mattina presto. Vedete, è andata a casa. È morta serenamente, nel sonno, con mia sorella al suo fianco. E c'è grande gioia assieme alle lacrime per lei. Non ne parlerò a lungo perché è difficile parlarne. Lei è stata una di quegli eroi silenziosi che abbiamo in tutta l'America, che non sono famosi, i cui nomi non sono sui giornali, ma che ogni giorno lavorano duro, si occupano della loro famiglia. Anche questa è l'America, ed è per questo che stiamo lottando. E come immaginerete, Radio 24 seguirà molto attentamente queste elezioni americane. Inizieremo alle 18:30 con la zanzara dedicata proprio a questo e proseguiremo per tutta la notte fino alla mattina dopo, alle 11. Poi speciali e altre informazioni li trovate su www.radio24.it e www.ilsole24ore.com, ma restate anche con noi perché continueremo a parlarne anche in questa edizione di XL. Ora la vicenda all'Italia, con il presidente della CAI Roberto Colaninno che ha chiuso le trattative con i piloti dei sindacati autonomi, insomma quelli che non hanno voluto firmare l'accordo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è un braccio di ferro quello tra parte del sindacato e i vertici della compagnia aerea italiana destinata allo stato dei fatti ad acuirsi al fronte del no che ieri ha chiesto al governo ECAI di riaprire il confronto a Palazzo Chigi, risponde oggi dal Vietnam, dove è presente nell'ambito di una missione del sistema imprenditoriale italiano il numero uno della CAI Roberto Colaninno. Il problema è chiuso, non convocheremo i sindacati autonomi, ha ribadito Colaninno, ma ascoltiamolo al microfono di Paola Nania. C'è nessuna convocazione, il problema è finito, chiuso. Quelli che saranno assunti potranno manifestare i loro interessi. Quelli che non sono assunti non possono neanche entrare. Voglio dire, se uno non è assunto cosa viene a reclamare? Cioè lei va a reclamare in casa degli altri? Quindi cosa farete? Una chiamata individuale? Chiamerete i piloti uno a uno? Magari ci sarà qualcuno che non è dell'Alitalia e che fa la sua domanda e che dice io vorrei fare il comandante. Dove facevi tu il comandante? Invita a mandare il curriculum. Sì, certo, noi assumeremo, cioè potremmo anche assumere i comandanti, i piloti di Ryanair, per esempio, no? Che vuole assumere quelli di Alitalia. Ah, appunto, voglio dire, vediamo che fa le condizioni migliori. Questa dunque la posizione di Colaninno dal Vietnam, chiude intanto la porta ai sindacati autonomi e anche il governo, il negoziato è terminato, non ci sarà alcuna nuova convocazione, ha detto questa mattina a viva voce a Radio 24 il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero Matteoli. Ascoltiamo allora un passaggio del suo intervento. Io posso capire tutto, ma quando c'è un'alternativa? Il commissario Fantozzi ha fatto miracoli per tenere in piedi all'Italia fino ad oggi. Se non c'è l'accordo, se CAI non è messa in condizione di poter far partire l'azienda, beh, l'alternativa è il fallimento. Chi non firma non accederà alla cassa integrazione, ha detto ancora Matteoli. Non c'è più spazio per alcuna mediazione, commenta invece il ministro per lo sviluppo economico Scajola. La situazione resta quindi molto tesa. Dal fronte del no replica Tomaselli, SDL, che non esclude un ricorso allo sciopero, ed aggiunge: i lavoratori sono molto arrabbiati ed è evidente che ci sono momenti di tensione ed è pensabile che si arrivi ad un conflitto. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. Oggi è il 4 novembre, giornata delle Forze Armate dell'Unità Nazionale, ma anche quest'anno il 90° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Cerimonia a Roma, poi al Sacrario di Re di Puglia Gorizia, mentre nel pomeriggio a Vittorio Veneto. Una corona di alloro deposta sulla tomba del milite ignoto, all'altare della patria. Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha celebrato questa mattina il 4 novembre, 90° anniversario della fine della Grande Guerra e festa delle Forze Armate. Dopo l'inno nazionale, la banda ha suonato la canzone del Piave. Accanto al presidente Napolitano, a salire le scale dell'altare della patria, c'erano tutte le più alte cariche dello Stato. Oggi sono numerose le celebrazioni in tutta Italia. Napolitano si è recato questa mattina anche al Sacrario Militare Re di Puglia, accompagnato dal ministro della Difesa Ignazio La Russa, che nel suo discorso ha auspicato che il 4 novembre diventi una data per la storia condivisa di tutti gli italiani e che possa rinsaldare l'inscindibile legame tra militari e cittadini. Hanno approfittato della giornata per manifestare anche gli studenti della Sapienza di Roma, che hanno esposto davanti al Colosseo uno striscione con la scritta «Non pagheremo noi le vostre guerre, più fondi all'università e alla ricerca». Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E andiamo in un luogo adesso dove l'esercito è presente, tra l'altro, per contrastare la camorra. Questa mattina c'è stata una grossa operazione contro la criminalità organizzata napoletana. Sono 88 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di esponenti del clan Gionta, una operazione eseguita dalla squadra mobile di Napoli con la collaborazione delle forze dell'ordine di Milano, Catania e Pistoia. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere di stampo camorristico all'omicidio, estorsione e traffico di droga. Tra gli arrestati c'è anche Gemma Donnarumma, moglie del capoclan Valentino Gionta, attualmente detenuto. La polizia ha sequestrato beni mobili e immobili, quote societarie e conti correnti per un valore complessivo di circa 80 milioni di euro. Il blitz di oggi ha praticamente decapitato il clan Gionta, che dalla fine degli anni 70 controlla le attività illecite a Torre Annunziata, cittadina strategica per gli affari della camorra, con il porto che rappresenta una zona di attracco per la droga e le merci di contrabbando. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. C'è un'ultima proposta provocazione da parte di Renato Brunetta, il ministro per la funzione pubblica. Stavolta non parliamo di tornelli. Tra l'altro, nel giro di stamattina sentivamo appunto che questa volontà di controllare i dipendenti è arrivata anche in Vaticano, perché negli uffici del Vaticano hanno iniziato a mettere appunto l'obbligo di timbrare il cartellino. Invece adesso una nuova proposta di Brunetta. Simone, di che si tratta? Gli emoticons, per chi non sapesse cosa sono le faccine che vengono usate sui cellulari e sulle email, insomma quelle che sorridono oppure che hanno l'aria triste, o fanno la linguaccia, per dare i voti ai dipendenti pubblici e poveraccio chi si prende la linguaccia, diciamo. E allora, a questo proposito, Maria Luisa Pezzali ha chiesto un commento su questa proposta di Brunetta ad un semiologo, Omar Calabrese. Uno statistico di quelli che fanno i sondaggi lo giudicherebbe scorrettissimo. Non è un sondaggio, non significa nulla, quindi è come se fosse un risultato truccato. Peraltro, chi gestisce una cosa di questo genere? E terzo, ma la critica, nel momento in cui la nostra amministrazione è così burocratica, prevarrebbe in automatico su qualunque elemento di giudizio positivo. Penso che segua un po' una tendenze alla comunicazione populistica, alla semplificazione delle cose e dei problemi. Come lo giudica come strumento dal punto di vista della comunicazione? Ma la faccina è carina, io non è che l'ho mai usata, ma comunque è grazioso. È uno strumento di facile uso e abbastanza carino. Però di qui a farne uno strumento di comunicazione e soprattutto di valutazione, davvero ci corre. I vostri commenti, le vostre opinioni o eventualmente le vostre faccine le potete mandare a extralarge@radio24.it. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La sfida è iniziata, gli elettori americani scelgono il loro nuovo presidente, i seggi sono già aperti in alcuni stati, i sondaggi danno nettamente favorito il candidato democratico Barack Obama. Intanto il primo risultato è arrivato, come tradizione, da un paesino del New Hampshire, dove i 21 elettori hanno votato a mezzanotte, 15 per Obama, 6 per McCain. CAI non convocherà i sindacati autonomi di Alitalia, mobilitati contro l'accordo firmato venerdì scorso e che hanno chiesto un nuovo incontro con i vertici della compagnia. Lo ha detto il presidente Roberto Colaninno. Secondo il ministro dei trasporti Matteoli è difficile che i piloti non sottoscriveranno il contratto con la CAI possano accedere alla cassa integrazione. Sono 7 milioni e mezzo gli italiani poveri in Italia, secondo un rapporto dell'Istat, e il 3,6% delle famiglie è a rischio. La ricerca di una strategia comune contro la crisi in vista del vertice dei leader europei di venerdì e oggi all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari a Bruxelles, attesa per la conferenza stampa di Tremonti. 4 novembre, giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, ma anche anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Cerimonia a Roma, Redi Puglia e Vittorio Veneto. Maxi operazione contro la Camorra, 88 arresti a Napoli, province e in altre regioni italiane contro esponenti del clan Gionta. Tra gli arresti anche la moglie del capo clan, Valentino Gionta, attualmente detenuto. Sapone e teli di plastica, ma niente cibo. Questo a quanto pare il carico di aiuti umanitari arrivato oggi a Kibati, vicino Goma. Stiamo parlando naturalmente della difficilissima situazione in Congo. E di questo, Simone, tu hai parlato poco fa in un'intervista registrata con il capo della missione in Congo dell'AVSI. L'AVSI è una ONG che lavora appunto sul territorio. Si chiama Edoardo Tagliani e lavora appunto a Goma. La situazione ad oggi è confusa, nel senso che il numero dei profughi effettivamente non è ancora noto, ci sono delle stime, li stiamo contando ed è più difficile del solito perché a causa appunto della situazione confusa la gente non sa più dove scappare, quindi a volte fa l'elastico tra una località e l'altra. Non riusciamo di preciso a capire quanti siano quelli in fuga, quanti siano quelli che rientrano per quanto riguarda la città di Goma si conta sicuramente la situazione umanitaria è drammatica, ma ripeto, le cifre sono tutte da verificare. Sono circolate cifre tra 1,6 milioni, addirittura 2 milioni, siamo comunque oltre il milione secondo lei? No, secondo me sono gonfiate, erano più o meno, e quelli li avevamo contati, 900.000 prima dell'inizio degli ultimi combattimenti. Presumibilmente potremmo essere intorno al 1.100.000, 1.200.000. Cifre più alte non gliele posso minimamente confermare, può darsi che siano possibili, ma bisogna fare delle missioni sul terreno, cioè uscire, andare a contare questa gente per verificarle. Secondo me parlare di 1,5 milioni, 2 milioni è esagerato. Ovviamente parlare di 1,100.000, 1,200.000 non è poco. La situazione sul fronte delle violenze, che cosa ha avuto modo di vedere, che cosa sta succedendo in queste ore? La situazione più drammatica è stata mercoledì sera scorso, passato, anzi pomeriggio e sera, quando è scoppiato il panico in città, l'avanzata dei ribelli si è fatta pressante alle porte nord di Goma, l'esercito è fuggito e i caschi blu non sono riusciti minimamente a contenere né l'avanzata dei ribelli né i saccheggi in città. I saccheggi e i regolamenti di conti sono stati fatti purtroppo soprattutto nel pomeriggio e nella notte di mercoledì ad opera di chiunque avesse in mano un fucile. Ad oggi abbiamo difficoltà per il nostro staff locale, cioè per la gente congolese che lavora con noi, a contare i morti e le rapine, non magari dirette col nostro staff, ma almeno nelle famiglie dei nostri staff. La situazione è ancora caotica. Dopo la notte di mercoledì, con l'accendersi di tutti i riflettori internazionali su Goma, effettivamente la MONUC, cioè i caschi blu, MONUC vuol dire missione ONU in Congo, ha schierato tutto quello che poteva schierare in città. Mentre l'ho fatto, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali dicendo che non può fronteggiare un'eventuale avanzata dei ribelli in città, ma che può garantire la sicurezza delle basi MONUC e delle ONG internazionali. Da quel momento, e cioè dalla notte di giovedì, le notti di Goma sono state più calme, almeno per quanto riguarda lo staff internazionale espatriato e anche per gran parte della popolazione. Nei quartieri più poveri sono continuati purtroppo e i saccheggi e i regolamenti di conti, però attribuibili a chi, non è difficile dirlo, e sicuramente la situazione in città per chi non ha un passaporto europeo e la pelle bianca continua a essere molto difficile. Voi riuscite ad operare in questa situazione? Allora, come AFSI abbiamo cominciato degli interventi d'urgenza in città e stiamo continuando il lavoro che normalmente facciamo in zone molto distanti dalla città, cioè in zone di foresta, che per il momento non sono state coinvolte nel conflitto. In cosa consiste il vostro lavoro? Cerchiamo di appoggiare le scuole, sia le elementari che le medie, le superiori. Spesso purtroppo siamo costretti a fare educazione in emergenza. In un paese che vive da 12 anni in guerra non è possibile pensare di non andare a scuola quando c'è la guerra, perché la guerra c'è sempre. Quindi esistono delle tecniche particolari, come per esempio costruire le classi in urgenza, che vuol dire semplicemente un riparo dalla pioggia, seguire i bambini a seconda di dove fuggono assieme alle loro famiglie per far loro continuare l'anno scolastico. Anche per evitare che imbraccino i fucili. Sicuramente, nel senso che purtroppo il fenomeno dei bambini soldato è un fenomeno che in Congo, così come in molti altri stati d'Africa, esiste. Tante volte i bambini soldati che vengono rapiti a scuola, quindi bisogna anche fare attenzione a dove si fanno le scuole d'emergenza, perché altrimenti può arrivare la milizia di turno, che non per forza è una delle milizie che oggi sono sotto i riflettori internazionali, perché qui ci sono diverse milizie irregolari che combattono in questo momento in Congo, vanno a prendere i bambini direttamente a scuola. Non si può schiacciare il tasto pausa sul videoregistratore, aspettare che la guerra finisca per ricominciare a studiare, coltivare, commerciare, vivere, sposarsi, far l'amore, fare dei figli. Ci sono stati titoli sui giornali, non solo su quelli italiani, nei quali si parlava dello spettro di un nuovo genocidio addirittura. Forse in qualche modo suggestiona il confine, il fatto che la cosa avvenga al confine con Ruanda, ma secondo quel che ha visto, secondo la sua esperienza di questi giorni e non solo, di questi anni, c'è qualcosa di concreto in questa definizione? Nella definizione spettro sì, nella realtà attuale no. Cioè, oggi non c'è in atto alcun genocidio. Sicuramente se non si trova una soluzione diplomatica alla situazione e se si procede con le armi, qui tutti hanno paura, perché il conflitto è anche, come dicevo prima, non solo un conflitto minerario, non solo un conflitto di soldi, ma anche un conflitto etnico, quindi è ovvio che la gente ha paura. Ad oggi non ci sono i dati di terreno per dire che si sta consumando un genocidio da una parte o dall'altra. E questo era Edoardo Tagliani, capo della missione in Congo dell'organizzazione non governativa AFSI, appunto sugli scontri che stanno avvenendo in Congo fra esercito e ribelli. Altre informazioni sull'associazione potete trovarle sul sito www.afsi.org. Restiamo all'estero e torniamo a parlare delle elezioni americane, ma viste dal punto di vista degli iracheni. I due candidati alla Casa Bianca hanno visioni opposte sulla strategia da adottare in Iraq e l'esito del voto dovrebbe dunque essere importante per il popolo iracheno. Ma pare che non sia così, almeno questo è quanto emerge dal reportage realizzato a Baghdad dal nostro Adib Fateh Ali. Sarà perché sono presi da mille problemi quotidiani, oppure perché hanno ancora addosso la paura dalle autobombe che negli ultimi due anni hanno devastato la loro città. Ma andando in giro per le strade di Baghdad a domandare un parere sulle elezioni USA, la gente ti guarda tra il divertito e l'incredulo, come se sei appena sceso da Marte. chi vincerà tra Obama e McCain a loro sembra appunto una vicenda da extraterrestri. Per gli iracheni, il destino dei quali forse più di ogni altro è legato alla scelta che faranno oggi gli americani, l'evento sembra l'ultimo dei loro pensieri. Sulla stampa nessun titolo se non nelle pagine interne, dove solo un giornale pubblica una foto di Obama. Tra i politici silenzio assoluto, in TV neanche un commento e nemmeno l'ombra di un dibattito. A Baghdad la situazione della sicurezza è decisamente migliorata, ma a che costo? Battuglie ad ogni rincrocio, nel centro un posto di blocco ogni 100 metri, muri di cemento lungo i perimetri di tutti i quartieri caldi. Per prevenire le bombe la città è letteralmente presidiata. Enormi ingorghi stradali rivelano però che la grande paura degli attentati sta passando. Molte persone dimostrano di non sapere nulla dei due candidati, ma quei pochi che sanno qualcosa hanno le idee chiare. Che importanza ha per noi chi vince? Dice un giovane venditore del mercato. Tanto entrambi i candidati seguiranno gli interessi dell'America, che per quanto ci riguarda sarà quello di sfruttare le risorse del nostro paese. Altri non danno credito ai sondaggi. Ci fanno credere che Obama vincerà, spiega un consigliere comunale, ma vedrà che alla fine vincerà quello bianco, perché gli americani sono razzisti e non faranno vincere un nero. Per un altro ancora, Obama, essendo di origini africane, avrà verso il resto del mondo povero una sensibilità che ai ricchi di razza bianca di solito manca. E ora torniamo a parlare di una vecchia rivalità sportiva. Le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Che l'Italia sia un paese immobile, lo si vede anche da questo. Viviamo di simboli, di vecchi ricordi. Peppone Don Camillo, il 68. Uomini politici che pedalano allegramente oltre la soglia dei 70 anni. In questo paese immobile ritorna di attualità il duello dei duelli, la sfida delle sfide. Quella tra Coppi e Bartali, una rivalità che negli anni del dopoguerra ha diviso una nazione e sembra non finire mai. Lo spunto nasce da un duello minore, quello degli eredi delle due fabbriche che fornivano loro le biciclette, la Legnano di Gino Bartali e la Bianchi di Fausto Coppi. Quest'ultima, dopo aver per anni controllato il marchio rivale, non vuole che la bici del vecchio Gino torni agli antichi proprietari, decisi a presentarla in questi giorni al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano. Una querelle commerciale, quindi, che però rimanda a voci e fotografie mai dimenticate. Un uomo solo al comando, francesi che si incazzano, il passaggio della leggendaria borraccia, che nessuno ha ancora ben capito come avvenne, e il famoso attentato a Togliatti, che stava per far precipitare l'Italia nella guerra civile, e che Bartali, coi suoi trionfi in Francia, contribuì a smorzare. Voci di un paese che non c'è più, ma ci piace ricordare così. Ti ricordi quella volta che tu atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La sfida è iniziata, gli elettori americani sono chiamati alle urne per scegliere tra Obama e McCain. I seggi sono già aperti in alcuni stati, i sondaggi danno nettamente favorito il candidato democratico. Anche Condoleezza Rice, segretario di Stato dell'amministrazione Bush, dice il paese è pronto ad un presidente di colore. La questione è chiusa, durissimo il presidente della compagnia aerea italiana, Roberto Colaninno. CAI non convocherà dunque i sindacati autonomi di Alitalia mobilitati contro l'accordo. Secondo il ministro dei trasporti Altero Matteoli, è difficile che chi non firma il contratto acceda alla cassa integrazione. Sono 7 milioni e mezzo gli italiani poveri, secondo un rapporto dell'Istat, il 3,6% delle famiglie appena sopra la soglia. La ricerca di una strategia comune contro la crisi è all'ordine del giorno nel Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari a Bruxelles. Arrivano i primi aiuti dell'ONU in Congo, ma sono sapone e tele, non c'è cibo per gli sfollati. A Goma situazione tranquilla solo per chi ha passaporto europeo e pelle bianca, ci ha raccontato a XL un operatore umanitario italiano. Maxi operazione contro la Camorra, 88 arresti a Napoli, province e in altre regioni italiane contro esponenti del clan Gionta, tra gli arrestati anche la moglie del capoclan. Approfondimento economico dedicato oggi ai dati che sono stati diffusi dall'Istat questa mattina, il consueto rapporto povertà che si riferisce in questo caso a dati del 2007. Che cosa è emerso da questo rapporto, Simone? Sì, dal rapporto è emerso che il 3,7% delle famiglie italiane è a rischio povertà, sono 7 milioni e mezzo gli individui poveri. C'è da segnalare naturalmente che non c'è nessuna variazione rispetto all'anno scorso, questo vuol dire nessuna variazione in negativo, ma non c'è nemmeno nessuna variazione in positivo. E così Andrea Viali ha intervistato Linda Laura Sabadini, direttore centrale dell'Istat. Continua a essere una situazione critica, continuano a mantenersi le criticità degli anni passati, la povertà è la povertà del mezzogiorno, la povertà dei minori, la povertà delle famiglie numerose, la povertà delle famiglie di basso status sociale, soprattutto famiglie operaie, la povertà delle famiglie con disoccupati, la povertà delle famiglie con anziani. Le differenze che emergono rispetto agli anni passati vedono alcune una diminuzione della povertà per quanto riguarda le famiglie con tre o più figli minori del mezzogiorno, che passano dal 49% al 32%, probabilmente anche in relazione alle misure che sono state prese nel 2007 nei confronti delle famiglie con figli di redditi bassi, e invece un peggioramento delle famiglie con tre componenti, soprattutto quelle in cui c'è la presenza di un figlio. E anche su cosa si può fare per aiutare le famiglie in difficoltà si discute all'Ecofin, il Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari in corso a Bruxelles. Si attende a minuti la conferenza stampa di Tremonti. Dino Pesole del Sole 24 Ore, tu la seguirai naturalmente e insomma vedremo se anche se riusciremo a farvi sentire qualche brano di questa conferenza durante XL, se inizierà. Dino, allora, che cosa sta emergendo dai lavori dell'Ecofin? Beh, dunque, la discussione qui dei ministri economici ovviamente si articola in uno scenario che è molto critico, perché le previsioni che ieri la Commissione economica ha reso noto dipingono una situazione, diciamo, di pre-recessione, se non addirittura di recessione già in atto, poiché le tre economie più grandi d'Europa, Francia, Germania e Italia, sono pesantemente il colpo. Allora, in questo scenario qui in sede di ministri si stanno, come dire, delineando alcune delle ricette possibili che dovrebbero essere sottoposte all'esame dei capi di Stato e di Governo che si riuniranno qui a Bruxelles venerdì. Riunione, lo ricordo, che a sua volta dovrà preparare la linea comune, si spera, si ipotizza, si immagina, europea, in previsione del vertice del G20 che si terrà a Washington il 15 novembre. Quindi insomma si tratta di definire, se possibile, una linea comune. La parola d'ordine qui è coordinamento il più possibile, considerato però che le scelte di politica economica sono scelte che verranno adottate e stanno in itinere nelle competenze dei singoli stati. Quindi si tratta un po' di verificare in che modo si possono coordinare i singoli interventi dei singoli paesi. Dino, solo un sì o un no, di concreto quindi niente ancora. Di concreto ancora nulla, c'è un'idea della presidente di turno Christine Lagarde di arrivare, diciamo, di nuovo a un'idea che sia un piano europeo di rilancio economico, ma al momento non è aria, insomma, di questo. Grazie Dino Pesole, in collegamento da Bruxelles dove è in corso l'Ecofin. Adesso c'è intanto qualcuno che sta pensando a come affrontare la questione delle difficoltà delle piccole e medie imprese, Alessandra. Sì, la Camera di Commercio di Roma ha varato una sorta di pacchetto anticrisi, sono 180 milioni di euro per lo sviluppo e la crescita economica, in particolar modo 110 milioni sono destinati per favorire il ricorso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese, altri 60 milioni invece serviranno a realizzare infrastrutture ad indirizzo economico immediatamente cantierabili con immediata ricaduta sull'occupazione. Ancora un focus sulle elezioni americane, andiamo ora a sentire come l'evento viene trattato dai giornali di vari paesi. Cristina Carpinelli. Buongiorno, sono ovviamente le elezioni americane a dominare le prime pagine di questa rassegna stampa internazionale. Si parte dal francese Le Figaro, che va in edicola con una foto, ritratto dei due candidati alla Casa Bianca, Barack Obama e John McCain, ritratti in stile pop art per il quotidiano francese che titola Il mondo guarda l'America. Le Monde ha una foto di elettori in fila ai seggi, il titolo molto ironico, l'America va a vivere la sua rivoluzione del 4 novembre. Più dura l'apertura del Financial Times, che sceglie una foto di Obama durante un suo comizio in Florida, e il titolo: i dati commerciali oscurano la corsa elettorale. La produzione manifatturiera, dice il Financial Times, ha toccato lo scorso mese livelli più bassi dall'82, a conferma della gravità della crisi economica continua che ha investito il paese. Invece le foto di due ragazze in lacrime mentre ascoltano Obama è sulla prima del Guardian, il titolo: il momento della verità in America. Si legge sotto: Barack Obama è ancora in testa nei sondaggi, si prevede che a votare andranno tra i 130 e i 140 milioni di americani. Anche The Independent sceglie di dare la prima pagina a Obama, c'è una foto del candidato democratico con le spalle la bandiera americana, il titolo: l'ultima tappa, Obama può non avere esperienza ma non gli manca il senso del comando. Il tedesco Der Spiegel titola: Obama e McCain lottano fino all'ultimo minuto, e all'interno vi segnaliamo un'intervista al segretario di Stato Condoleezza Rice che dice: l'America è pronta per un leader nero. Si tratta di un'intervista molto interessante che analizza le tappe di questi 8 anni di governo Bush, si parte dall'11 settembre fino all'intervento in Iraq, e alla domanda: pensa che l'America sia pronta per un presidente nero? La Rice risponde: l'America è un paese straordinario dove le abitudini sociali cambiano in modo quasi impercettibile, poi ti svegli una mattina e tutto è cambiato. Ieri vi abbiamo parlato del caso Campania. Sono finiti i soldi per le strutture private accreditate, così i pazienti sono costretti a pagare il prezzo pieno delle prestazioni sanitarie oppure a rivolgersi al pubblico con lunghe liste d'attesa. Ma il problema, come ci stanno segnalando anche molti ascoltatori che hanno scritto extra large at radio24.it, riguarda altre regioni. Oggi vi parliamo del caso Sicilia. Roberta Pellegata ha intervistato Marcello Campione, segretario provinciale di ANISAP Trapani. ANISAP è l'associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie ambulatoriali, diciamo, quindi qualsiasi, dalle TAC, le risonanze, le ecografie, per quanto riguarda la radiodiagnostica, per poi andare a finire anche il laboratorio di analisi, quindi qualsiasi esami del sangue, eccetera, eccetera, praticamente l'assessorato ha totalmente bloccato, tagliato i fondi a metà anno del 30% su base annua. Quindi arrivati gli ultimi 3-4 mesi non ci sono più fondi. Cosa succede? Che praticamente le persone che hanno necessità o si rivolgono agli ospedali, alle strutture pubbliche, oppure pagano. I centri convenzionati hanno le attrezzature, i requisiti, ma non hanno i fondi. Quelli pubblici, le ASP pubbliche, invece, non hanno le attrezzature. Né i requisiti né le attrezzature. Trapani, per esempio, per quanto riguarda le TAC, le risonanze, ce l'ha soltanto l'ospedale, che non è ASL, mentre l'ASL, appunto, come poliambulatorio, non ha niente. Quindi, diciamo, il problema è veramente serio. Ma come provincia di Trapani, io parlo di Trapani perché vivo la mia realtà, ma anche in tutta la Sicilia. Questo, a suo parere, perché capita? Guardi, il nostro comparto non ha mai sforato, noi avevamo 436 milioni di euro a partire dal 2004 destinati a noi e la regione non ha mai speso più di 300-350, assolutamente, quindi al di sotto del nostro fondo. Abbiamo erogato l'84% delle prestazioni richieste a livello regionale, il 16% residuo l'ha erogato la regione, insomma i poliambulatori pubblici eccetera eccetera, con una spesa di 300 milioni di euro. Quindi noi con 436 milioni e poi ne abbiamo avuti 350-360, abbiamo erogato l'84% delle prestazioni, mentre il poliambulatorio, i poliambulatori, le ASL, gli ospedali eccetera eccetera, con 300 milioni hanno erogato il 16% delle prestazioni residue. Ora parliamo di calcio. Questa sera la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La Roma sfida il Chelsea mentre l'Inter gioca contro i ciprioti della Nortosis. La squadra rivelazione della competizione europea è la Nortosis, che ha una difficile storia alle spalle e gioca da 34 anni in esilio. Una squadra che è il simbolo di un paese diviso e di una città che ha secoli di storia complicatissima. È la Nortosis Amokhostou, sorpresa di Champions League. È la squadra di Amokhostos, cioè Famagosta. Ma la Nortosis a Famagosta non gioca più dal 1974. La città cipriota diventò genovese nel 1372, poi veneziana, poi turca a metà del 500, per diventare britannica nel 1878. La Nortosis venne fondato il 30 gennaio 1911 e diventò subito simbolo dello spirito cipriota di libertà. La squadra prese parte attiva nella rivolta anti-inglese del 1931 e il governatore inglese ne ordinò la chiusura. La reazione popolare fu tale che nel 1932 la Nortosis riprese a giocare. Nel 1952 alcuni membri del team vennero arrestati. Sui muri della sede erano apparse scritte come «La Grecia non morirà mai». Ancora arresti nel 1955 e nel 1956 un nuovo ordine di chiusura. Nel 1958 la sede della squadra venne distrutta dall'esercito britannico. Vi erano state trovate armi delle OCA, l'Organizzazione Nazionale per la Lotta Cipriota. Famagosta venne attaccata e successivamente occupata dall'esercito turco durante l'invasione del 1974 e i suoi 200.000 abitanti greco-ciprioti fuggirono senza più farvi ritorno. E la Anorthosis? Ha giocato ad Asaki, ad Aradippu, ora a Larnaca, nel sud-est dell'isola, in mano greca, dove a partire dal 1986 sorge lo stadio Antonis Papadopoulos. Troppo piccolo per le sfide di Champions, giocatori e tifosi fanno le valigie e vanno a Nicosia. Lo spirito della Anorthosis non morirà mai, dice il motto della squadra, il cui simbolo è una fenice. Inevitabile, con una storia così. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. La sfida è iniziata, gli elettori americani sono chiamati alle urne per scegliere tra Obama e McCain, i seggi sono già aperti in alcuni stati, i sondaggi danno favorito il candidato democratico. La questione è chiusa, durissimo il presidente della compagnia aerea italiana Roberto Colaninno, CAI non convocherà dunque i sindacati autonomi di Alitalia mobilitati contro l'accordo. Sono 7 milioni e mezzo gli italiani poveri nel nostro paese secondo un rapporto dell'Istat, il 3,6% delle famiglie è appena sopra la soglia. Maxi operazione contro la Camorra, 88 arresti a Napoli e province in altre regioni italiane contro esponenti del clan Gionta. E torniamo dunque a parlare di elezioni americane. Come sapete, seggi aperti dalle 6 del mattino, ora italiana, ora americana, in mezzogiorno in Italia, in Connecticut, Indiana, New York, parte del Maine, nel Vermont, in New Jersey, in Rhode Island e Kentucky, a ruota hanno seguito il resto degli stati. Come si sa, Barack Obama è il candidato favorito, ha ricevuto l'appoggio anche del Chicago Tribune, il giornale più importante di Chicago, che per la prima volta ha deciso di sostenere un candidato democratico. Ce ne parla il nostro inviato a Chicago, Sergio Nava. Bruce Dold è editorial page editor della Chicago Tribune, il più importante giornale di Chicago. Fondato nel 1847, il Chicago Tribune ha appoggiato con un endorsement formale la candidatura di Barack Obama a presidente degli Stati Uniti. Ieri, in un editoriale, lo ha addirittura definito come l'uomo di Chicago. Abbiamo incontrato Dold nel suo ufficio, situato all'interno della splendida Tribune Tower, il palazzo in stile gotico del giornale che svetta con le sue architetture sulla Michigan Avenue. In un certo senso Barack Obama è ancora abbastanza nuovo per Chicago, mi spiega Bruce Dold. Occorre infatti ricordare che la prima volta che corse per il Congresso qui perse, mentre solo pochi anni dopo, quando corse per il Senato americano, era già una figura popolare. Chicago è una città molto diversa, internazionale, in crescita, che vede in Barack Obama qualcuno in cui specchiarsi. Perché l'appoggio formale a Barack Obama? Chiedo a Bruce Dold. Noi con Obama abbiamo sostenuto un candidato democratico alle presidenziali per la prima volta nella nostra storia, mi risponde. La linea editoriale del giornale si basa, in economia, su limitati interventi del governo, libertà d'impresa, apertura dei mercati e libero scambio. Obama si trova su una linea molto simile alla nostra. Certamente è più liberale del Chicago Tribune, ma abbiamo visto in lui qualcuno che possiede grandi capacità di giudizio, grandi abilità di pensiero, un'intelligenza ragionata. Riteniamo che sarà un leader pragmatico, un leader dalla grande etica. Chicago e l'Illinois sono conosciute per la loro politica corrotta e ora abbiamo qualcuno come Barack Obama che ha grandi standard etici. È questo ciò che cerchiamo in un presidente. Faccio notare a Bruce Dold che Chicago, nei giorni immediatamente precedenti l'elezione, non sembra particolarmente in fermento, almeno esteriormente. Tutta la politica alla fine è locale e Chicago si scalda probabilmente di più per l'elezione del sindaco che non per quella del presidente americano, mi risponde. Ma penso che ci sia grande fermento. Se va a Grand Park, dove si preparano i festeggiamenti, vedrà una grande massa di gente. Questa città è molto orgogliosa di Obama. Chicago, come il resto del paese, ha cominciato a interessarsi a lui dopo il grande discorso alla Convention Democratica del 2004. Quel discorso gli valse l'elezione al Senato, a larghissima maggioranza. È stato meraviglioso per Chicago osservare la successiva evoluzione di Obama. Grow since then. Vi ricordiamo che Radio 24 seguirà questa giornata elettorale americana alle 18.30 alla Zanzara, poi a partire dalle 21 un lungo speciale La notte elettorale degli Stati Uniti fino a domani mattina alle 11. Altri aggiornamenti e informazioni sui nostri siti www.radio24.it e www.ilsole24ore.com. Adesso parliamo di riforma dell'università. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che il governo non avrebbe proceduto con un decreto legge ma con un DDL. Arriva in qualche modo una conferma da parte del presidente dei senatori del Popolo delle Libertà, Maurizio Gasparri, dopo un vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli. Dice: la riforma è una questione a tappe, ci sarà un disegno di legge complessivo, alcune linee guida da discutere con studenti, professori e università, decreti per questioni urgenti in agenda. Fra gli atenei che in questi giorni sono stati accusati di essere più spreconi c'è l'Università di Siena, con debiti stimati intorno a 170 milioni di euro. Oggi lezione maratona in piazza dei docenti, secondo i quali la responsabilità è da ricercare in chi ha gestito i bilanci. Maurizio Bettini, docente di filologia classica a Siena, appunto, al microfono di Adriana Fracchia. Il problema dell'Università di Siena è comune a molte altre università, e cioè un bilancio in rosso. Sono state, tra virgolette, scoperte una serie di problemi, di buche che a quanto pare nessuno aveva visto, né il rettore, né il direttore amministrativo, né i revisori dei conti. Questo a prescindere dai tagli dell'attuale decreto Gelmini? I tagli naturalmente influiscono, però questi sono indipendenti dai tagli, senz'altro c'erano già. Lo spreccone chi è? Non è tanto questo il problema. Io non vedo grandi sprechi in questa università. La reazione nostra però non è tanto per dire non è vero che non ci sono i problemi, è che c'è, come dire, una specie di attacco morale nei confronti dell'università, per cui sembra che professori, personale tecnico, ricercatori eccetera in realtà abbia passato tutti questi anni a sprecare soldi. Questo non è assolutamente vero. Gli attacchi sulla stampa erano di questo tipo: si prende una università che è la prima, tra l'altro, in classifica, è la migliore università italiana, Siena, nelle classifiche del Censis e dell'Alma Laurea, e la si prende, la si brutalizza e si dice: vedete cosa fanno, buttano i soldi dalla finestra e quindi non meritano niente, protestano per garantire i loro privilegi. Questo non è assolutamente vero. Noi abbiamo tutta l'intenzione, anzi la determinazione, a mantenere vivo l'unica cosa preziosa dell'università: sono gli studi e il pensiero critico. Il sonno ha spesso ispirato gli scrittori, basti pensare al bellissimo romanzo di Jonathan Cole, La casa del sonno. A cimentarsi con questa fase, in parte misteriosa, della vita quotidiana è anche uno scrittore italiano. Roberto Tiraboschi, che ha scritto per le edizioni EO il romanzo Sonno. È una sorta di giallo che gira intorno ad un uomo, Gregorio, che decide di ricoverarsi in una clinica del sonno. Sentiamo che cosa ci ha raccontato l'autore. Sonno nasce da un'esperienza personale. Io avevo mio figlio che non ha dormito, credo, per i primi 10 anni, o dormiva molto poco e aveva un sacco di incubi. E da lì abbiamo incominciato a passare tutti i medici, vari passaggi, e però ho incominciato anche a approfondire questo tema del sonno e ho trovato delle cose molto interessanti, da cui poi è nato lo spunto di questo romanzo, che è un mystery, che ha così dei colpi di scena, delle svolte, e che però porta il protagonista a farsi ricoverare in questo istituto, in questa casa di cura del sonno. E qui il protagonista poi incomincerà un viaggio dentro se stesso, dentro la zona più oscura della sua coscienza, e scoprirà un segreto che sarà poi quello che svelerà il mistero, che naturalmente non raccontiamo. Chi sono i personaggi invece che affollano questa casa di cura del sonno? Dunque, sono diversi personaggi. Oltre al protagonista, che soffre di insonnia e va a curarsi per quello, c'è un altro personaggio, Malinverni, che soffre di oppressione spettrale. È un bellissimo nome, ed è quella sensazione che forse qualcuno ha provato, di sentirsi mobilizzati a letto e di aver voglia di muoversi e non riuscire a muoversi. C'è una ragazza che avrà una relazione poi con Gregorio, che soffre di narcolessia, che è un'altra malattia, come molti sanno, ci sono momenti di catatonia, cioè si perde completamente il controllo muscolare, si cade addormentati all'improvviso. Poi c'è un ragazzino che ricorda il personaggio di mio figlio, che ha questi incubi terribili e che poi verrà guarito, per fortuna. Sfida iniziata, seggi già aperti in molti stati americani. Dai sondaggi si attende una valanga per Obama, ma il fattore razziale potrebbe pesare. All'Italia parla Colaninno, la trattativa è chiusa, semmai prendo i piloti Ryanair. Sono 7 milioni e mezzo i poveri in Italia secondo l'Istat, il 3,6% delle famiglie appena sopra la soglia. Università, riforma a tappe, annunciato poco fa il centrodestra. Le faccine degli SMS per giudicare i dipendenti pubblici, l'idea di Brunetta fa discutere. Iniziano ad arrivare gli aiuti umanitari in Congo, un operatore italiano XLR ha detto la situazione a Goma è tranquilla solo per i bianchi. 13:55 minuti 42 secondi, termina così questa edizione del GR Extra Large condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Maria Piera Ceci e con il regia Peter Bescapè. Se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Riascoltare la puntata sul sito www.radio24.it. Prossimo GR alle 15 con XL, torna domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.